Ti odio perché mi vieni a cercare, ma poi non ci sei e cado nel sentiero che mi ha rubato, cancellato e sorpresa. Abbraccio il mio cuscino pensando che è forte il cielo con i suoi astri, mi addormento. E con un sorriso io ti dedico un inciso, e ti dedico un inciso. Mi chiedo dove sei o dove sei stata fino ad ora, se i brividi sono la tua carezza o solo un fiocco di neve, se mi hai regalato un bacio in viso o anche solo un sincero sorriso. E ti dedico un inciso. E tu che mi tocchi senza parlare e mi parli senza fiatare, se quel negozio è ancora aperto rimane acceso nel buio del deserto. E scusa le domande, ma lo sai, sono sempre io quello indeciso. E ti dedico un inciso, e ti dedico un inciso, e ti dedico un inciso. E ti dedico.